Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie per essere presenti, comunque numerosi anche considerando insomma che è domenica pomeriggio. Io porto saluti all'amministrazione comunale del sindaco Luca Menesini e ci tengo particolarmente intanto a ringraziare Nicola Fanucchi che qualche settimana fa mi ha chiamato, era un pomeriggio, dicendo che c'era questa opportunità e insomma ci ha fatto molto piacere coglierla e mettere a disposizione la nostra sala Pardi, la nostra biblioteca d'Artemisia per questo incontro. Presentiamo un libro, l'autore è qua ovviamente con noi, Antonio Pavolini, si chiama Stiamo sprecando internet e oltre all'autore abbiamo il piacere, oltre a Nicola che ho già ringraziato, di avere qua a Capannori Vera Gheno che non ha bisogno di presentazioni da parte mia, volto noto ormai anche della televisione, no? Non so, questo sia abbastanza, insomma, abbastanza, comunque scrittrice, traduttrice, sociolinguista, insomma, la conoscete tutti se siete qua questa sera, per cui insomma io vi ringrazio davvero della presenza, ringrazio chi interverrà dopo di me appunto per il contributo che ci darà e vi auguro insomma un buon proseguimento pomeriggio. Grazie. First opened our doors. Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. For over 100 years. Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. People. People. People. People. People. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Family. Families are families. Families. Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today more than ever. Today more than ever. In times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times. Challenging times. Trying times. In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. In uncertain times. In uncertain times. Uncertain times. Unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. It's time of social distancing. While things have slowed down. As we turn more inside. While the doors may be closed. While the distance between us has gotten bigger. The more we stay apart. We still find ways to stay close. Even when we're apart. Even if we can't stand closer than 6 feet. We can all stay connected to work, school, and most importantly, to each other. There's still ways to touch each other. All without leaving the comfort and safety of your home. Without leaving the safety of your home. From home. Your home. Your home. At home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. That's the key. Buick and GMC are here to help. Con Edison is here to help. Here to help. Our teams are here. We are here. We're here. We're here. Here for you. Here for you. We're here for you. We are here for you. We are here for you. We're here for you. We are here for you. We'll be here for you. Runnings is here for you. We're still here for you. We're with you. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. And together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. Together. MasterCard. Eppure tutte queste grandi aziende non hanno lo stesso comunicatore, sono uffici di gente strapagata e che però alla fine hanno raccontato una storia dicendo tutti la stessa cosa, ma poi ci spiegherà meglio Antonio come mai ha scelto di partire con questo video. Quando io ho letto il libro di Antonio, Deformazione professionale, ho pensato a due momenti, diciamo, teatrali che in qualche modo sono appartenuti alla mia formazione, no? L'isola della tempesta, dove Prospero in qualche modo imprigiona tutte persone che non sanno di essere suoi prigionieri, e addirittura anche il suo assistente Ariel, lo spirito, è imprigionato, e fino a quando Prospero stesso non decide di, prima della famosa frase sul sogno, siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, la nostra vita è racchiusa in un sogno, di liberare tutti loro, ecco. E quello che è avvenuto 30 anni fa, cioè, e stiamo parlando non ho detto 30 giorni, ho detto 30 anni fa, e cioè l'avvento di internet, quindi una roba ormai datata, ormai storica, anche se viene ancora definita i nuovi media, questa roba che scrivi anche qua sul libro. L'altro giorno era una riunione e un signore di 80 anni si girò verso di me e disse: sentiamo il parere di un giovane. Ecco, sapevo che avreste riso a questa situazione, ma anche quando noi parliamo di internet dice: no, perché ora c'è internet? No, veramente è 30 anni che c'è, no? E che c'è web, insomma, ecco. Quindi questo mi ha fatto pensare a questa immagine. E un'altra cosa che invece, prima ho fatto una chiacchierata con Antonio, qui sembra, vedendo anche questo video, che ci sia una specie di religione, cioè loro dicono: questo è, io ti dico, questo è il mio dogma, e invece noi teatranti per fortuna non abbiamo certezze, abbiamo quello che Amleto ci insegna prima di tutti, che è il dubbio. E forse sarà proprio questo dubbio che ci salverà dall'omologazione, no? Ne abbiamo parlato anche con Massimo qualche volta. Allora, io volevo cominciare con una domanda: ma perché stiamo sprecando internet? Allora, intanto grazie naturalmente al comune di Capanori per aver messo a disposizione questo spazio bellissimo. Grazie a Nicola, a Vera, per aver reso effettivamente necessario incontrarci a parlare di queste cose, perché bisogna parlarne. Prima di rispondere a questa tua domanda, Nicola, ti dico, rispondo alla domanda precedente che mi hai fatto: perché siamo partiti con questo video? Siamo partiti con questo video perché noi, secondo me, possiamo anche parlare dottamente a lungo di problemi della comunicazione pubblica, di degenerazione del discorso pubblico, ma poche cose come l'inefficacia su di noi di qualcosa che viene remixato, e lo abbiamo visto, in un modo in cui il pubblicitario non pensa che noi fruiamo uno spot, cioè confrontandoli tutti e facendoci vedere che sono tutti uguali. Cioè, poche cose come essere esposti al fallimento di questa operazione ci apre gli occhi e ci fa capire di vivere tutti in un grande piano della rappresentazione distante anni luce dal piano della realtà. È un video che mostra fondamentalmente in che modo vengono prese le decisioni delle grandi aziende dal punto di vista della comunicazione istituzionale. Ci sono agenzie strapagate con persone che hanno uno straordinario talento C'è sempre un pool di creativi, di solito i migliori, i più bravi, persone che avrebbero idee straordinarie, diverse, e poi esce fuori questa roba qua. Perché? Perché la domanda che fa chi vende la campagna pubblicitaria non è come ottenere il risultato, è che cosa il cliente sarà disposto a comprare, che campagna il cliente sarà disposto a comprare. E il cliente a sua volta si fa un'altra domanda, che è: che campagna faranno tutti gli altri grandi marchi? Se io sono Pepsi, che campagna farà McDonald's? Che campagna farà AT&T? E quindi tutti prendono una decisione difensiva, cercano di fare la campagna che si aspettano di fatto, di fondo, che faranno anche tutti gli altri. È questo che spinge verso l'omologazione. La cosa affascinante è che il reparto che poi alla fine la dovrà fare questa campagna si chiama reparto creativo. E io vi ho voluto far vedere questo video perché ci apre intanto gli occhi su quanto sia nudo questo re che ci vuole consegnare questo dogma, e di come la grande opportunità che abbiamo di sfogliarlo ulteriormente, che sarebbe appunto l'apparizione per la prima volta di una infrastruttura a due vie, cioè un luogo dove possiamo rispondere a questa comunicazione che arriva dall'alto, ecco, questa grande opportunità la stiamo sprecando, e qui ti rispondo alla seconda domanda: la stiamo sprecando fondamentalmente per pigrizia mentale, ma soprattutto perché ci siamo fatti educare ad un uso inutile di internet, cioè siamo stati educati a subire internet come subivamo i media precedenti, la televisione, i giornali, la radio, quando in realtà l'opportunità sta proprio su quel canale di ritorno che noi abbiamo su internet, e di cui, diciamo così, anche su questo canale di ritorno passano tantissime cose che creiamo noi, ma alla fine le cose che creiamo noi, delle cose che creiamo noi abbiamo una totale inconsapevolezza. Se noi prendessimo in mano la parte consapevole di quello che restituiamo su internet, e cioè il nostro diverso sguardo sul mondo, allora coglieremo l'opportunità, ma in realtà il business è costruito sui dati che noi rilasciamo inconsapevolmente e che vengono poi, come sapete, questo immagino che lo sappiate, vengono rivenduti ad inserzionisti delle piattaforme, delle grandi piattaforme chiuse all'interno delle quali è stato sviluppato questo modello, il cui scopo è esattamente quello di non farci mai uscire da queste piattaforme, proprio come 30 anni fa lo scopo di un canale televisivo, di un palinsesto, era non farci mai cambiare canale. E la copertina del libro è estremamente, diciamo, eloquente in questo senso. Io non ho dato nessuna idea al grafico che ha avuto questa idea geniale di rappresentare la internet in cui siamo adesso come una bolla, non so se lo vogliamo far vedere, vera, come una bolla dove siamo tutti imprigionati qua dentro, ma noi non sfruttiamo tutto lo spazio che è fuori, lo spazio pubblico digitale, che è una sorta di deserto dove potremmo cominciare ad accamparci come si fa nel film Nomadland, no? Potremmo cominciare ad abitarlo per scoprire le vere opportunità che sono là fuori, e il libro esplora queste altre opportunità. Io vorrei però a Vera, tanto è chiaro che avere Vera, la risposta facile è: perché vuoi avere Vera alla presentazione di un libro? Perché viene un sacco di gente, perché è conosciuta, perché è figa, perché è intelligente, perché è brillante. È vero, naturalmente. Sì, lo so, a Nicola sta antipatica, ma poi è bello perché si crea un dibattito anche violento tra una cultura. Fuori. Esatto. Questa è la risposta facile, e naturalmente, come tutte le risposte facili, è la risposta vera con la E stretta. La risposta falsa, invece, è quella con cui adesso io cerco di giustificare il motivo per cui Vera è qua. No, ma Vera non è qua perché attrae pubblico, no. Vera è qua perché è una grande studiosa di linguaggi. Tutti quei linguaggi veri che nascono dalle nuove generazioni, che sono completamente ignorati dalla comunicazione aziendale, istituzionale, ufficiale, e di cui internet miracolosamente ci dà visibilità. Cioè, noi grazie a internet possiamo vedere veramente le nuove generazioni quanto ignorano tutto questo devastante teatrino che l'industria ha costruito in realtà per la nostra generazione. Tu, Vera, in tutti questi anni, no? in cui hai lavorato molto, perché lei è anche una nerd, io la conosco perché stava su Friendfeed, stava su queste piattaforme di social networking che usavano pochi, diciamo, matti, ma appassionati di tecnologia, ma anche bruttissime persone, però poi alla fine, perché c'ero anch'io, lo dico per quello, però insomma già da lì tu vedevi che stava brulicando là fuori un linguaggio completamente ignorato dal discorso dominante, non è così? Allora, io pensavo di essere qui per un'altra cosa, che è quella di essere... Non perché sei figa, cioè... No. Perché in realtà questo è un libro che ha molto a che fare con l'essere dinosauri dell'internet. Cioè, secondo me, la prospettiva di Antonio, che ovviamente è diversa dalla mia, lui è un analista vero e proprio, cioè una persona seria, io studio la comunicazione, ma lui studia dei gangli più profondi della questione, secondo me. Però c'è una cosa che ci accomuna, è che stiamo online da tantissimo tempo. Cioè io ho calcolato che per me è il 28° anno online, perché nel 95 mi sono connessa per la prima volta, quindi insomma è più di un quarto di secolo. E in questo quarto di secolo io penso che tutti e due abbiamo vissuto una fase di grande entusiasmo pionieristico, nel senso che inizialmente davvero quell'idea del cyberspazio, della conquista della frontiera digitale, tutte le cose che si potevano fare, i contatti che si potevano creare, eccetera, era qualcosa di entusiasmante ed era qualcosa anche di prezioso. Cioè io mi ricordo che per me tutto quello che trovavo su internet era qualcosa che mi dava degli spunti poi nuovi, dei nuovi punti di vista, la possibilità di incontrare soggetti con le stesse mie manie, abitudini, passioni, dei codici completamente differenti. È anche una interessante possibilità molto democratica di incontrare il signor Nessuno, ma anche magari una persona che già ammiravi per altri motivi, no? Quindi questo senso di democrazia digitale per me è stato molto forte. Dopodiché sono arrivati i social media, cioè quelli veri e propri, quindi Facebook, no, soprattutto i big player, per così dire, i grandi giocatori della situazione, e ho visto questa parte, invece che arricchirsi, risecchirsi in un certo senso, perdere di nervo, e come dicevi tu, ho notato che in rete alla fine si tendono a riprodurre i meccanismi dei mezzi di comunicazione di massa più classici, no? Quindi si diventa fruitori medio passivi di contenuti, e la possibilità di aprire un canale a due vie si riduce al commento incazzato sotto la condivisione della notizia che non ci piace, no? Per cui prima scrivi la lettera al direttore, oggi scrivi la lettera alla persona che registra il podcast, giusto? È successo adesso, quindi sto parlando in presa diretta di quello che mi è appena successo, però quando io ho letto il titolo io mi sono rivista molto in quello che dicevi tu, cioè mi sono riconosciuta in questo, mi sono riconosciuta che forse stiamo perdendo un'opportunità. Il video che hai fatto vedere, che è appunto questo montaggio di tutte le pubblicità dei tempi del Covid, no, delle grandi aziende, impressiona, perché effettivamente c'è un'omogeneità che manco da Zara, manco da H&M, cioè proprio una roba, no, una mi sento molto manipolata da queste pubblicità, perché la lacrimuccia mi è anche venuta, perché sono commoventi a modo loro, no? Poi ti ricordano quello che abbiamo vissuto tutti. È la stessa, è una lacrimuccia etero diretta, non è una lacrimuccia sincera, è una lacrimuccia estorta in qualche modo, perché comunque tocca le cose giuste. Allora, visto questo comune passato, chiaro che poi potremo parlare di lessici, di cose nuove, di quello che noi non vediamo che fanno i ragazzi, perché per esempio, a proposito della questione intergenerazionale che tu hai posto, quello che io sento moltissimo è che siccome noi adulti non capiamo quello che fanno le generazioni successive alla nostra, allora fa tutto schifo. I giovani d'oggi che non hanno le parole, che cazzeggiano online, che in realtà c'è tutto un mondo nascosto, perché tanto la percezione dall'altra parte è che noi non possiamo capire, e però quando poi uno ci si affaccia vengono fuori cose bellissime. Allora dirò due cose e poi ti ripasso la palla, è una domanda in realtà da fare. Appena prima del lockdown io ho avuto la fortuna di gestire un ciclo di incontri sull'educazione digitale per l'educazione digitale in 77 scuole dell'Internato fiorentino. È una cosa di cui ho anche parlato in un paio di articoli, ed è molto buffo perché ovviamente le scuole che hanno aderito perché ritenevano che io avrei parlato dell'annoso problema che ci attanaglia in quanto adulti, ossia il cyberbullismo, detto così, il cyberbullismo. Quindi io entravo in aula, c'era sta gente che, no, sti ragazzi, diciamo più o meno prima, i primi due anni delle superiori, ok? Quindi già, no? Già così con lo spleen adolescenziale, no? Quindi entravo in aula, mi dicevo, ciao, buongiorno ragazzi, ragazze, ragazze, cercavo subito un po' di insinuarmi, mi guardavano con aria bovina, e cioè, sapete perché sono qui? Lei è quella del cyberbullismo. Non è che chiedevo quanti di voi sono stati bullizzati, ma pensate che io sia qui per parlare solo del cyberbullismo? E di solito c'era sempre il Franti in aula che diceva, beh, quello che fate voi adulti. Allora, parlatemi di cosa pensate di internet. È internet è pericolosa? Hermione Granger alza la mano e dice, su internet c'è la pedopornografia, c'è questo, c'è il grooming, c'è il phishing, c'è tutto quello che può andare male, il sexting, il revenge porn, Blue Whale, Jonathan Galindo, no, me li tirava giù tutti e tutti sì, sì, sì, sì. E ci andiamo avanti, tutti d'accordo, no? E allora alla fine gli chiedevo, ma quanti di voi stanno sui social? Tutti? Cioè, o TikTok, o Instagram, o qualche squinternato su Facebook, ma... Cioè, no, squinternato nel senso che i giovani non stanno su Facebook, siamo noi dinosauri, no? Però Instagram, TikTok e poi tutte le altre cose, Discord, Twitch, no? Tutte le cose che si usano anche per le dirette, eccetera. Cioè, ma avete appena detto che è tutto pericolosissimo, fa tutto schifo, perché ci state allora? E allora c'era sempre Franti, perché c'è sempre bisogno di Franti? Perché è figo! Ma mi avete appena detto che è pericolosissimo. E allora di solito c'era qualcuno che lo diceva, perché è quello che vi volete sentir dire. Ma voi e noi, noi giovani e voi vecchi, e a voi vecchi vi raccontiamo quello che vi volete sentir dire. Un po' come le indagini, gli exit poll, no? Che la gente non osa dire quello che ha votato davvero e sono tutti sfalsati. È un po' quell'effetto lì. E quindi poi, grazie a questo gancio, si riusciva a parlare invece della parte bella. E veniva fuori il podcaster, ragazzini, quello che c'aveva il profilo del gamer con 40.000 follower, quella che fa le foto artistiche alle gocce d'acqua, cioè veniva fuori un mondo nascosto. E allora a un certo punto io chiedevo, ma i vostri genitori lo sanno che fate queste cose? Perché comunque siete tutti minorenni. E la maggior parte non diceva queste cose ai genitori, perché tanto non capirebbero, alla prima notizia del tipo, appunto, Blue Whale, li farebbero chiudere tutto. E quindi delle cose furbissime, tipo un vecchio cellulare senza SIM card che però si attacca alla wifi dal quale gestisco i miei social. Allora è lì il pericolo. Cioè, se tuo figlio è un gamer con 50.000 follower e tu non lo sai, il problema è che se gli succede qualcosa di brutto non te lo può neanche dire, no? E quindi diciamo che la morale di tutto questo era, bisognerebbe che ci fosse più dialogo intergenerazionale. È come ho cercato sempre di fare con mia figlia, ma è sempre stato piuttosto difficile, però grazie al cielo con lei in qualche modo ce la caviamo. Per cui tu dici i giovani, io dico ci sono tanti alfabeti, tanti dialetti di internet, se vogliamo chiamarli così, non mappati, che non sono la narrazione che ci restituiscono i social media stessi e gli altri mezzi di comunicazione quando si incrociano con questa specie di patina fintina dei social media, che è l'interpretazione prevalente. C'è molto di più, si può fare molto di più. Quello che io ho apprezzato del tuo libro è che tu parli di tutti quegli spazi che noi non vediamo più, che c'erano, che ci sono, perché perfino i newsgroup, se tu scavicchi bene, ci sono, che però non vediamo, perché oggi quando pensiamo a internet pensiamo ai social media e a Google e casomai alle testate giornalistiche dove andiamo a prendere le notizie. Però c'è tutta una parte dove invece veramente ci sono le praterie, e come dicevi prima che iniziassimo l'incontro, non è come lo spazio fisico che a un certo punto finisce. Cioè lì davvero siamo nello spazio infinito, c'è molto di più di quello che di solito frequentiamo. In questo senso, per me, stiamo sprecando internet. Ma oltre alla lacrimina estorta, tutti abbiamo provato un senso quasi di irrealtà nel guardare il video e dire, è possibile che tutti abbiano fatto la stessa pubblicità? Ma qual è il vantaggio di questa omogeneizzazione? A chi serve? Perché è importante, perché piace per esempio narrare anche i social media o quello che c'è su internet sempre allo stesso modo? Quo pro? Allora, due bisogna distinguere tattica di comunicazione e strategia, no? La strategia no, non c'è nessun vantaggio. Il problema è che le aziende hanno una semestrale e dei conti da far tornare, dei budget da spendere, e quindi non guardano più lungo del loro naso. Anche le grandi aziende americane, quelle che noi indichiamo come le maestre della grande comunicazione istituzionale, aziendale. Io faccio sempre riferimento a questo perché poi in realtà i media, che dovrebbero saper fare filtro, in realtà accolgono a piene mani, no? il discorso che arriva dai loro, diciamo così, inserzionisti, perché questo è il punto, no? Cioè il mondo della comunicazione aziendale e il mondo dei media, la radio, la televisione e i giornali sono legati a doppio, triplo filo. Poi in Italia abbiamo anche i nostri meravigliosi CDA, dove dentro molti di questi inserzionisti riappaiono sotto altre forme, quindi il livello di intreccio è tale che, insomma, mi verrebbe da rispondere alla tua domanda: conviene perché tutti questi rapporti di potere continuino e la continuità è tranquillizzante. Quello che abbiamo visto in questi ultimi, per rispondere ancora a te Nicola, in questi ultimi 30 anni di vita di internet, che sono gli anni in cui è apparso il web, quindi qualcosa di visibile e quindi la minaccia visibile per il sistema dei media che esiste da prima, abbiamo assistito a 30 anni di una costante delegittimazione della rete e della transizione digitale, che prende anche la forma folcloristica che più o meno tutti noi che spesso ci ritroviamo a parlare in questi consessi, ma c'è sempre nel panel, forse oggi ci salviamo, però c'è sempre nel panel il tecno-pessimista, il tecno-luddista, ma poi se aprite qualsiasi calendario di eventi, l'evento è sempre sul cyberbullismo, sulle fake news, sul revenge porn. Cioè il racconto è distopico ed è un racconto, lasciatemi dire, io speravo che finisse dopo i primi 10-15 anni, perché pensavo banalmente che il pubblico a un certo punto si stancasse, no, di questo attacco continuo, e che si arrivasse, non so, a un red d'azione, ma invece no, continua, va avanti all'infinito. E perché va avanti? Tra l'altro, ecco, assistiamo spesso poi alle persone che parlano di questa internet satanica, sono vi ritrovate spesso a questi eventi, che so, la polizia postale che deve insegnare ai ragazzi di terza media come si usa internet. Ora, sono persone che fanno un lavoro fondamentale, un lavoro importantissimo, però non sono le persone a cui io chiederei la parte, diciamo, educativa. Magari chiederei di raccontare quali sono le conseguenze, la parte sanzionatoria, perché sono loro poi che intervengono, no? E i ruoli si mescolano pericolosamente, cioè a parlare di questo non sono le persone che conoscono i 360 gradi dell'esperienza internet, ma che conoscono molto bene il loro fondamentale lavoro, ma non può essere l'unico possibile angolo d'attacco del problema. Allora, la paura che scatena i media in questa opera costante di delegittimazione è proprio la paura della diversità a cui noi siamo improvvisamente stati esposti grazie a internet negli ultimi 30 anni. E il tentativo è sempre quello invece di ricondurci, e qui rispondo al tuo a chi giova, di ricondurci a un racconto centralizzato, di cui il controllo è centralizzato. All'inizio si pensava che la minaccia fossero i contenuti generati dagli utenti, cioè il terrore che aveva l'industria dei media, non scherzo, perché io lavoro in questa industria, erano i filmini, i primi filmini che facevamo ai matrimoni, ai battesimi, quando qualcun nostro nipote andava sullo skateboard e si sfracellava un ginocchio. Ecco, secondo l'industria dei media, all'inizio il terrore erano queste cose qua. Dopo 5 anni hanno capito che il problema non era quello. Il problema era il fatto che era stata ceduta non una quota di contenuti indipendenti, ma era stata ceduta la funzione editoriale. Cioè ciascuno di noi può creare un proprio, per usare una parola che piace a loro, un proprio palinsesto. E come si è stati capaci di ricondurre questa nostra capacità di moltiplicare le linee editoriali all'infinito, no? A un'unica nuova linea editoriale. Come è stato possibile ricondurci all'interno di questi recinti? Attraverso degli algoritmi che hanno preso il posto dei vecchi palinsesti. Questi algoritmi sono fatti in modo da tenerci sempre lì a parlare, ancora una volta, di nuovo, di quelle 5, 6, 7 cose che vengono decise e stabilite nelle solite, vecchie, decennali, secolari salette delle riunioni di redazione dei giornali, oppure, perché il tema si può estendere al di fuori del giornalismo e dire anche nelle sale dove si decide come fare il programma di un festival, quando si fa una stagione teatrale, quando si fa persino un pacchetto turistico. Cioè, sono il ruolo dell'intermediazione culturale, lo dobbiamo vedere come funzionante tutto nella logica del funziona economicamente solo se banalmente tutti fanno la stessa cosa. È un continuo rinchiudere. Se vedete anche il business delle navi da crociera, lo scopo di quel business è sospendere la regola della domanda e dell'offerta, andare in un posto dove tutti, bene o male, come intrattenimento, come attività, devono fare una sola cosa. E non è quello che noi associamo all'idea della libertà, e quindi di una vacanza, nel senso, scusami se entro nel tuo campo, di mancare a qualcosa, no? Cioè, essere vacanti, nel senso del vuoto. No, abbiamo qualcuno che ci dà una nuova pappa pronta e siamo disposti a pagarlo, perché il preciso nostro obiettivo è non avere l'onere di scegliere. Ecco, internet ci dà l'opportunità di tornare a scegliere, ed è esattamente contro questo che l'industria si è scagliata negli ultimi 30 anni. Ci vedere al di là del oddio c'è solo la fake news, al di là del oddio c'è il cyberbullismo, perché su internet, ma non sulla internet iper ricca di oggi, anche sulla internet di 15 anni fa c'erano dei forum dove per la prima volta le persone gay hanno potuto parlare liberamente tra di loro, protette dall'anonimato, e organizzarsi e scambiarsi idee al di fuori del racconto della loro vita e dei loro problemi, che era intermediato da una scelta redazionale, da una scelta editoriale. Cioè, si sono potuti riconoscere e rendere conto che hanno problemi e quindi anche soluzioni comuni. E quindi non c'è solo il branco, c'è anche l'essere uniti da interessi comuni, che è un altro grandissimo problema per l'industria editoriale tradizionale, perché questi interessi comuni, per decenni, su questi interessi comuni per decenni si è costruito solo quel business là. No, allora, questo è molto bello, no? Devo dire, alla fine del libro se ne esce con un grande messaggio di ottimismo, di speranza, ma anche la voglia davvero di fare questa rivoluzione possibile, perché, come dice Antonio, c'è chi vuole che internet diventi come un broadcast, no? Si diceva una volta, ma questi bambini negli anni 80, ce lo citi sul libro, stanno 6 ore davanti alla televisione, e ora si dice, stanno 6 ore davanti a internet. Va bene, ma questa seconda è una grande opportunità, perché di là c'era un messaggio veicolato e chiuso, di qua, come dici ancora in un altro pezzo, lo dici anche tu, Vera, in una bellissima intervista sul teatro e sull'arte, quindi sull'atto creativo. L'atto creativo è tale se ha un, tu lo chiami spettatore, tu lo chiami interlocutore, no? Quindi se c'è uno scambio, no? Cataldo ha organizzato, il mio amico e compagno di viaggi artistici, un laboratorio per spettatori consapevoli. Allora, noi come possiamo organizzare un laboratorio per interlocutori consapevoli di internet, no? Perché questo mi sembra una cosa interessante, cioè è una grande isola enorme, infinita, dove si può davvero sviluppare la democrazia. Parole, questo libro parla di parole che mi fanno venire i brividi: verità, libertà. È vero, perché oggi, e penso che se oggi fosse vivo Molière o fosse vivo Shakespeare, scriverebbe su questo argomento, perché questa è la nostra urgenza, questa è la nostra, è il nostro presente, non è il nostro futuro. Allora, però, come possiamo aiutare l'ecosistema a essere consapevole? Come possiamo fare in modo che non ci siano degli esclusi? Perché la mia sensazione è che anche su internet i poveri, le persone che non hanno una grande cultura, le persone che magari arrivano e hanno altri cavoli per la testa, no? La mia mamma adesso è a casa e ha una badante che la sta guardando. E forse lei, che è una signora russa di 80 anni, 70 anni, non ha questa grande possibilità. E invece sarebbe un territorio di libertà e di democrazia. Allora, mi sembra che un po' ne parli, no? di questo aspetto qua. Sì, al di là di... bisognerebbe fare un laboratorio per trasformarci in interlocutori senzienti. La domanda a monte è: chi di noi è titolato, no, a tenere questo laboratorio, no? E perché questo è un po' il problema in questo momento. Sì. Anche nelle scuole, sì. C'è come materia, allora. E chi può farla questa, chi può insegnarla? Allora, in questo momento il problema è che a raccontarci il bello e il brutto di internet sono i media precedenti, e questo è il problema, e così facendo si collocano automaticamente loro stessi dal lato della soluzione e non dal lato del problema, che è invece ciò di cui parlo nel libro. Diciamo che un passo, se posso dare un solo suggerimento per ciascuno di noi, trasversale a tutte le generazioni, anche se quelle troppo giovani io ho difficoltà a rivolgermi a loro e a dire come bisognerebbe usare internet, perché sono sempre loro fondamentalmente che dovrebbero insegnarlo a noi, e lo dico una volta per tutte questo. Se posso dare un suggerimento è il seguente: allora, noi dovremmo imparare a consultare internet e quindi non accendere internet, essere sempre collegati always on. No, noi dovremmo già avere un'idea chiara di quello che vogliamo fare quando accendiamo uno di questi schermi. Quindi dovremmo usare internet per trovare una dimensione documentata e magari anche sociale di uno spunto che vediamo nella nostra vita quotidiana, nel mondo fisico, perché lo spazio pubblico fisico, che viene sempre visto in contrapposizione con questo spazio pubblico che sta su internet, che sta nel telefono, in realtà è completamente contiguo. Tutti i tentativi che abbiamo fatto di considerare internet come esclusivo, cioè qualcosa che ci tiene fuori dalla vita in carne ed ossa, e si è rivelato clamorosamente fallimentare, a cominciare dai metaversi, dove dobbiamo metterci dei visori che ci escludono completamente da quello che succede fuori. Quando noi, l'idea stessa che miliardi di persone avrebbero dovuto indossare un visore per abitare la nuova internet, che sarebbe stato il metaverso di Zuckerberg, da sola l'hanno capita persino i venture capitalist che finanziano Zuckerberg, e infatti le azioni dopo questo annuncio sono crollate, perché invece tutte le opportunità economiche sono nate quando i due mondi entrano in comunicazione, ma soprattutto quando ciascuno di noi vede l'opportunità, la cosa che vogliamo approfondire, la cosa che vogliamo fare nello spazio fisico, e trova su internet il modo per risolvere un problema, il modo per sfruttare meglio il tempo, il modo per fare arte. Esatto, cioè si parte da quello che succede nel mondo, e per fortuna il nostro sguardo sul mondo è cambiato radicalmente, devo dire anche grazie alla pandemia, cioè noi guardiamo lo spazio pubblico con occhi diversi, ci rendiamo conto delle opportunità che ci sono in tutto lo spazio che abitiamo, c'è tutto un capitolo del libro che lo racconta. Ecco, poi solo dopo su internet troviamo la dimensione documentata. Quando lo spunto parte dallo spazio fisico e internet la usiamo così, allora scopriamo esattamente tutti quei deserti, no? Tutti questi luoghi che arricchiscono la nostra vita. Quando invece facciamo nello spazio fisico ciò che lo schermo ci ha suggerito, ebbene, c'è sempre qualcuno che si è messo di mezzo per stabilire che cosa è rilevante per noi, a che evento dobbiamo andare, che notizie dobbiamo leggere, in quale thread polemico ci dobbiamo infilare. E anche socialmente qualcuno ci ha detto anche qual è la parte giusta dove dobbiamo stare. Quello sempre. Non so, Vera, se ti ritrovo. Cioè, sì, no, mi ritrovo moltissimo. Mentre parlavi mi venivano in mente due cose che dico spesso. Secondo me possiamo continuare da qui. Sicuramente molte persone qui dentro si ricordano del mitico villaggio globale di McLuhan, no? L'idea che anche grazie a internet sarebbero create queste grandi piazze dove tutti amici, tutti spedi pizza, no? Un mondo mitico così. Pochi anni dopo, in realtà, McLuhan, cioè non tanto tempo dopo, arriva Manuel Castells, che era molto più critico delle possibilità, diciamo così, date anche da internet, e dice: invece di fare il villaggio globale abbiamo costruito una distesa infinita di cottage super personalizzati, che sono così, una villetta a schiera, no? Cioè, internet è una distesa di villette a schiera talmente comode che la gente non esce più, no? Per cui stai lì, hai tutto, che bisogno hai? No, anzi, innalzi il giardino murato, tu parli dei giardini murati e lì ci ha visto proprio il Castells in azione. C'è un parallelismo grosso con quello che succede, lo dicevamo prima, con gli spazi pubblici fisici, nel senso che soprattutto chi vive in città, ma forse anche chi vive in campagna in realtà, ci possiamo rendere conto facilmente che non ci sono più spazi di nessuno, cioè i campi, no? Mi ricordo quando ero piccolina, dietro casa di mia nonna in Veneto, si poteva andare su per il campo, su per la montagna, e poi via via nel corso dei decenni sono stati chiusi questi campi, no? Sono state messe delle barriere, casomai rimaneva un sentierino, che però era quello, non è che potevi andare in giro dove volevi tu nel campo, arrampicarti a caso nel bosco, perché era tutto prefissato. Idem le città, cioè a Firenze si arriva, ma credo in tutte le grandi città artistiche, si arriva all'assurdo che non puoi fare flanerie, non puoi cazzeggiare sulle scale del Duomo, perché ti cacciano, no? Quindi la città diventa una specie di museo a cielo aperto attraverso il quale tu passi, ma non vivi la città. Infatti io che sto all'Isolotto, che è un altro luogo mistico per molti versi, ha una sua mistica molto profonda, ma in centro ci vado per lavorare, poi vengo via, vado in scooter, esco, cioè io non vivo il centro, però non lo vivo, anzi con certa vergogna la maggior parte delle mie cose le compro online, perché mi fa proprio fatica andare a infilarmi nel carnaio e andare su questi percorsi obbligati, no? Quindi c'è un parallelismo molto forte che in qualche modo ci rigetta in questa dimensione del cottage iperpersonalizzato, e invece ci sono gli spazi comuni, no? Cioè il profilo Facebook diventa il cottage, l'algoritmo lo abbellisce, ti fa vedere, no? Minimizza l'incontro con la diversità fastidiosa, tutti sembra che parlino delle stesse cose con gli stessi toni, eccetera. Usciamo. Per fortuna esistono spazi come questi, ma comunque sono degli spazi regolamentati, no? Mi ricordo che qualcuno mi diceva un po' di tempo fa, manca la flanerie, cioè il girellare. Il girellare invece è una dimensione umana importante, perché nel girellare ci si può anche annoiare, che è un'altra cosa che non facciamo più. Tutto questo mi portava a pensare a una serie TV. Allora, io ho un rapporto molto di grande amore per le serie TV, perché penso che ultimamente siano fra i prodotti culturali più sul pezzo rispetto alle cose del presente, alle inquietudini, alle cose belle, alle cose brutte. Penso a The Last of Us, penso a Euphoria, penso a Sex Education, sono un po' le mie preferite, ma anche Bridgerton, che mi capita di citare sempre di più perché Shonda Rhimes è una che driffa di raffa delle cose, questioni grosse, insomma, culturali, sociali, le infila dentro anche in maniera un po' surrettizia. Non so se hai visto The Peripheral. Non ancora. Ecco, allora, The Peripheral, inverso, The Peripheral la trovate su Amazon Prime Video, ed è una serie, non mi pagano per promuoverla, è una serie tratta da un romanzo breve di William Gibson, che è il padre del cyberpunk, no? Neuromante, quello che poi ha creato tutta la visione del cyberspazio, Matrix, eccetera eccetera, e io sono grande fan del cyberpunk, ma soprattutto di William Gibson. The Peripheral parte da uno spunto, è il tuo visore che me l'ha fatto pensare, e lo spunto è questo: c'è un beta tester di giochi al quale consegnano una periferica particolarmente immersiva, che è un po' come lo squid di Strange Days, non so se vi ricordate il film, cioè una roba che ti mette in testa, ti si aggancia alle sinapsi, non è che spiega molto, comunque direttamente negli occhi, nel nervo ottico, e tu vieni catapultato in un gioco dal quale hai anche dei feedback fisici, quindi se ti fanno male nel gioco sanguini nella realtà, non muori, nel senso che viene espulso dal gioco quando muori nel gioco, almeno quello non succede, però insomma molto immersivo. Quasi subito, non è un grande spoiler perché è subito della prima puntata, quasi subito succede una cosa strana. Parlando con gli stub, che sono questi personaggi non giocanti, diciamo, all'interno del gioco, si capisce che quelli nella realtà del gioco stanno in realtà giocando con noi, e quindi c'è un doppio gioco: noi giochiamo, noi pensiamo di guidare i personaggi dentro al gioco, il gioco in realtà sta guidando noi, e quindi Gibson apre tutta la questione di chi è reale e chi è virtuale, che mi sembra una delle grandi questioni del presente, no? Dove finisce l'uomo, dove inizia la macchina, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Allora, in tutto questo marasma, noi poveri esseri umani, con forse ancora il mito dell'internet democratica in cui si possono fare cose. Dove li troviamo? Dove li possiamo trovare queste zone temporaneamente autonome, tanto per citare Hacking Bay, che so che ami anche tu? Che possiamo fare? Perché è vero, possiamo iniziare a compulsare internet, però questo è un primo passo. A me piacerebbe andare oltre. Quello è un passo elitario, no? Che chi è più, diciamo così, cosciente del problema, diciamo, esercita, perché molte persone, lo dicevi, ecco, anche per rispondere a te sul tema delle disuguaglianze, no? In realtà, se uno vuole, può organizzarsi il proprio meraviglioso mondo libero su internet, si prende anche la, dopo aver selezionato contenuti, communities, amicizie, piattaforme, ci sono anche piattaforme più piccole, più libere. A me piace molto Tumblr, per esempio, come sai. Sì, ne cito, il libro, adesso, allora lo vogliamo spoilerare, ma il libro c'ha anche tutta una serie di riferimenti, di posti un po' più liberi dove si può cominciare ad andare. Ti ringrazio. Però per il problema delle disuguaglianze, cioè, non vorrei mai fare quello che, siccome è un po' un addetto ai lavori, allora dice, guarda, fate come me, io ho fatto così. No, cioè, ci vuole un approccio, mi verrebbe da dire, scusate la parolaccia, di governance, no? Cioè, ci vorrebbe, questo è un problema politico. Questo è un problema politico, è un problema pubblico. Infatti anche quando, è buffissimo, perché quando ci sono le finte guerre tra i grandi conglomerati dei vecchi media e le nuove grandi piattaforme come Facebook, Amazon, eccetera, sembra quasi che dobbiamo prendere le parti e dire, ah, questi sono quelli buoni, vedi, Facebook sono quelli nuovi e devono uccidere i cattivi vecchi, o viceversa, no? Dire, vedi, però Bertelsmann, Berlusconi, i vecchi editori, Pearson, vogliono fare la guerra ad Amazon che vende libri online, bene, perché sennò chiudono le librerie, no? Cioè, noi stiamo qui a fare il tifo in una partita di calcio dove non ci rendiamo conto che il problema non è che c'è un buono là in mezzo e un cattivo, il problema è pubblico, e il privato in quanto tale, facendo interessi che non sono i nostri, non dico che sia il cattivo, ma deve essere regolato da una scelta politica. Quindi la prima cosa che mi verrebbe da dire è, proviamo con quello straccio di istituzioni che ci sono rimaste, ok? Proviamo a fare in modo che le decisioni chiave vengano prese da persone che siano, per esempio, un po' più Rodotà, ok? O un po' più, non lo so, in Italia non è che ne abbiamo avuti tanti, ma negli Stati Uniti abbiamo avuto Lessig, no? Lessig che promuoveva una certa evoluzione di internet, ecco. Cioè, se queste fossero le persone che prendono le decisioni, sicuramente il tema delle disuguaglianze, almeno avremmo l'esempio di dire, beh, vedi, questa è una cosa su cui le istituzioni pubbliche possono fare. Per certi versi mi verrebbe da dire che noi europei siamo anche fortunati, perché noi abbiamo comunque, siamo riusciti a prendere tutti insieme come paesi le decisioni sulla privacy, no? Con il GDPR e ora con il Digital Services Act, delle decisioni a livello europeo molto importanti, e siamo molto più tutelati paradossalmente di un utente americano, per non parlare poi di un utente cinese che si ritrova praticamente la loro Facebook, la famosa WeChat, no? Che è proprietà di un'azienda che è Tencent, che a sua volta è il governo praticamente cinese. In quel caso è veramente un vero grande sistema di videosorveglianza, altro che, diciamo, diritti individuali da tutelare, libertà in rete, eccetera. Lì è proprio quello, cioè non è il problema laggiù, non è insegniamo alle persone a consultare internet, impediamo a internet di consultare le persone, perché è questo quello che succede. E attenzione, perché ci siamo anche noi, se non prendiamo questa consapevolezza, questa coscienza del problema politico, siamo a un passo da una svolta che va, non dico nella direzione necessariamente cinese o extraliberale americana, siamo comunque a un passo dal subire un nuovo grande discorso dominante, perché purtroppo questa tecnologia somiglia molto a quella del libro 1984, che è il primo libro che ho comprato a mia figlia. Sì, esatto, che è lì che ride, però fondamentalmente lì c'era un televisore dove, per non essere ripreso, dovevi nasconderti in un angolino della stanza. E oggi dobbiamo evitare di avere Google Home acceso quando parliamo dei nostri progetti per le vacanze. Siamo arrivati a questo, no? Ecco. Quindi un minimo di consapevolezza di media literacy del terzo millennio è uno sforzo pubblico. Cioè io mi immagino un ipotetico Beaubourg, no? Dove qualcuno decide che questa è una responsabilità dello Stato, no? E non mandarci sempre il poliziotto postale, va benissimo, cioè, oppure mandarci Baricco che ci deve dire fondamentalmente che il mondo è crollato perché lui non serve più a niente, che questa è la sintesi estrema del suo libro The Game, bellissimo, però il messaggio è questo. Sì, lo è stato. Allora, non possiamo affidarci di volta in volta al salvatore della patria che ci dice, a Bauman che ci dice oddio c'è la modernità liquida, a Morozov che ci dice adesso andrà tutto per forza così perché tanto finiremo così. Io lascerei un po' da parte i guru e direi proviamo tutti insieme a vedere se c'è anche da noi, per esempio, un singolo eurodeputato del PD che non vota la direttiva del copyright. C'era, c'è stato. Ecco, io mi sono segnato il nome di questa persona, adesso me lo sono dimenticato, però insomma, poi magari ve lo dico. Però ci sono delle persone che, anche solo per il fatto di sfuggire a questo racconto dominante, vi dovrebbe scattare una lampadina e dire come mai questa persona oggi ha deciso di non parlare di fake news. Beh, sul libro citi due martiri della rete che sono Schwartz e Assange. Insomma, no? Ma Assange è pubblicato come una specie di pericoloso criminale dai media ufficiali, almeno italiani. Poi per fortuna alcuni grandi media internazionali invece sono impegnati nelle campagne per la sua che contrastano la possibile sua estradizione negli Stati Uniti. Alan Schwartz è stato reso inoffensivo, cioè sono due personaggi che sono stati resi inoffensivi. Alla fine Schwartz, che lottava per libertà di rete, non so se lo conoscete, vi consiglio un documentario che si chiama The Internet On Boy, che si può vedere liberamente su YouTube, racconta tutta la sua storia. A lui dobbiamo alcune delle poche libertà che ci sono rimaste in rete, ve lo dico così come trailer. E si è suicidato a un certo punto che a forza di cause del sistema giudiziario americano contro tutte queste sue innovazioni, perché non era solo un militante, era anche un programmatore, che poi le cose le faceva veramente, insomma alla fine è stato messo così in un angolo che l'hanno suicidato, mi verrebbe da dire. E Assange, insomma sappiamo bene che è uno di quei argomenti tabù, non si vede, non se ne parla in nessun festival italiano, non se ne... Cioè, quest'anno, il 2023, è l'anno in cui si decide se sarà estradato negli Stati Uniti, quindi in cui sparirà, fondamentalmente, cioè non lo vedremo più. È l'anno in cui questa cosa viene decisa, eppure questa non è un tema d'attualità. Mi dispiace dirlo, ma quest'anno non se ne è parlato nemmeno al Festival del Giornalismo. Io penso sia stata una distrazione, conoscendo l'impegno degli organizzatori decennale sulle libertà, poi hanno parlato di Assange in passato, non penso che sia stata una scelta di convenienza, non oso pensarlo, però io sono stato un po' deluso da questo fatto, infatti quest'anno non sono andato. Dico solo questo. Allora, comunque, il libro vale davvero la pena perché Antonio dà davvero qualche anche chiave di... per aprire un pochino di queste porte, no? E proprio molto anche pratico nella parte finale, al di là di tutte le belle cose che sono scritte. Mi piacerebbe, adesso io faccio, come dire, la Sabina Ciuffini. Ecco, ho detto una cosa profondamente. Chi è Sabina Ciuffini? No, perché è stata la prima, sono un fan io di Sabina Ciuffini. No, scusa, allora, intanto io Nicola finisce con la A, per cui te non puoi dire niente, va bene? Ah. E poi mi direi come si pronuncia la Schwama dopo al bar, perché non so fare. E potete fare domande a Antonio o a Vera, liberamente, quindi io vi porgo il microfono, che devo fare più di così? Non lo so, io... Bisogna che qualcuno faccia questa cosa di alzare la mano, che richiede alcuni joule calorie. Se ritenete di farlo, eh? Chi lo joule? Io sono la mamma. No, no, per carità. Ricordiamolo. Ricordiamo che è la festa della mamma. Se volete, se no aspetta, mentre pensate, a questo punto cosa succede, no? Che uno dice mentre pensate alla domanda e poi c'è un'altra persona che interviene, no? E do la parola a Vera Genon, ma nel frattempo qualcuno di voi penserà alla domanda, prenderà il microfono e dirà: la mia più che una domanda è una considerazione. E parla per due ore. Bene, facciamo fare questa cosa vera che si traveste. No, no. Allora, c'è questa ragazza che sei timida, vuole fare una domanda. Sì, sì. In realtà, dai, la mia più che una domanda è una considerazione. No, volevo aggiungere due informazioni su Antonio. Tanto per spiegare il personaggio, perché è una persona molto, molto peculiare, Antonio Pavolini. Allora, di guru in Italia ce ne sono tanti. La maggior parte va in televisione, fa cose molto altisonanti, alcuni rockano delle follette colorate per esempio, ma insomma ce ne sono vari molto noti che incontrate anche sui media tradizionali. Antonio è sempre stato un po' un'eminenza grigia per quanto mi riguarda, cioè lui interviene poco in maniera molto specifica, ha delle grandi competenze tecniche e tecnologiche, cioè si vede che è un dinosauro come me. Quindi non è uno raffazzonato, non l'ho mai sentito dire cavolate, questo in tanti anni non ti ho mai sentito dire una cosa con la quale non ero tutto sommato d'accordo. E lui a un certo punto li guarda, li osserva tantissimo e poi tira fuori dei librini, neanche troppo grossi, molto pacati, ma che sistemano tutta una serie di cose che magari i guru hanno lasciato un po' ai margini, no? Un po' in maniera sconnessa, insomma evidentemente non le consideravano rilevanti. Quindi uno dei motivi secondo me per seguire il lavoro di Antonio è che è come se facesse una specie di distillato delle cose che girano in rete, che magari sono quelle meno visibili ma che poi alla fine sono la ciccia, cioè questo te lo riconosco, e tutti questi anni ho sempre avuto questa impressione di che dice Antonio, no? Che insomma, per me sei un personaggio importante della rete, magari non sei il più famoso, ma secondo me nell'ambito delle persone che sono davvero interessate a quello che succede anche dietro le quinte, tu sei un elemento molto importante. Ecco, ti volevo fare questo. No, ma voglio dire, il problema, ci eravamo messi d'accordo. Il problema è quando vai in televisione, dice ok, il broadcast è finito, la televisione è organizzata, sì, male, evidentemente Paolo, non lo chiama più, cioè, sbaglia proprio il luogo. Grazie, grazie Vera per le tue bellissime e generose, fin troppo parole. E nel frattempo qualcuno ha maturato una considerazione. Io ho una domanda. Attenzione, perché è un personaggio pericoloso e chissà cosa chiederà. Due domande addirittura. La prima è questa, e è rivolta a entrambi. Per capire... Ringrazio per la considerazione. Ma scusa, ma no, perché... ti ringrazio tantissimo. Ma io mi rivolgo a te come Sabrina Ciuffini o chi sei, non lo so se anche lei ha un'opinione da esprimere in questo momento. Entrambi. C'è anche la sedia che mi ha dato. Ti prego, già che faccio la domanda. Ci dico, sono due poltroni e una sedia. Si parla di uguaglianza, di libertà. No. Sono mortificato, vai avanti. Io ti chiedo umilmente perdono e faccio la domanda. Allora, la domanda è questa: per comprendere anche, no, i linguaggi, nonché le cose che accadono su un luogo, bisogna anche capire un pochino come questo luogo è fatto, no? Cioè l'editoria è cambiata enormemente quando siamo passati dai manoscritti alla stampa, no? Allora vi chiedo quanto è necessario e importante comprendere anche il dato tecnico di che cos'è la rete, per comprendere che cosa si muove dentro la rete. Tu prima faccio questa domanda perché avete detto a un certo punto: io sono un analista, insomma, cioè mi occupo anche di quello che ci sta dietro, che è invece cosa che internet è fatta in modo che nessuno di noi si chieda che cosa c'è dietro. Quindi questa è la domanda che vi volevo fare, sia per comprendere i linguaggi che per comprendere i fenomeni. E la seconda domanda, perché mi gioco il bonus, posto Sabrina? Ok, grazie. E, è questa invece, no? Appunto, pensando per esempio a come usano i miei figli, no? Internet. A un certo punto, quando io avevo 16 anni, qualcuno mi doveva, cioè mi ha consigliato anche che cosa leggere, che cosa no, e a volte ho scelto che cosa leggere partendo da quello che loro mi consigliavano e scegliendo qualcosa di diverso, no? Però c'è una componente dialogica anche del sapere, no? Che per me perlomeno è stata liberante, perché se io avessi dovuto soltanto fidarmi della cultura dei miei genitori non sarei andata molto lontano, perché loro venivano da un altro luogo rispetto a me. Anch'io adesso vengo da un altro luogo rispetto a loro e a volte i miei consigli di lettura gli sembrano probabilmente uguali a quelli che io facevo ai miei genitori. Mi chiedo, è possibile per loro uscire da questa bolla? Dove trovano questo luogo anche un po' trasmissivo che comunque apre orizzonti, no? Perché per esempio i professori, che pure io stimo, dei miei figli, sono quelli che gli dicono fate le ricerche su internet e poi non è che chiedono ma qual è la fonte, no? E i miei, soprattutto quello che è alle medie, va su Wikipedia, li prende quando va bene, ma a volte è il primo risultato che gli viene suggerito dal motore di ricerca. Mi chiedo, ma non lo so, ecco, anche un attimo, no, lavorare insieme sulle fonti potrebbe essere interessante. Quindi ecco, dov'è questo dialogico, no? Che ci può anche far capire, o può far capire alle nuove generazioni quali sono gli spazi immensi di cui parlate, che forse a loro sfuggono, ai più, a quelli che non sono riusciti ad arrivarci da soli o perché sono entrati in contatto con qualcuno di particolarmente alfabetizzato. Sei d'accordo, Vera, che ce le dividiamo? Io faccio la prima e tu fai la seconda? No, il contrario, proprio bene. Vuoi il contrario? No, allora... E che io mi stavo distraendo mentre diceva la seconda, già pensando. Quello che bisogna fare, l'ascolto attivo, cioè, vabbè. Ok, tu, mentre lei prepara la risposta. Sul tema del come funziona, quanto è importante sapere come funziona. Allora, il mantra ipersemplificato dei discorsi che cerchiamo di fare spesso è non è internet che è cattiva o buona, è come la usi. Io provo sempre a superare questo mantra e dire... è soprattutto come si decide di farci i soldi. È come la usa non l'utente finale, ma soprattutto come la usa chi gestisce la piattaforma popolata, sia che sia Instagram, sia che sia TikTok, sia che sia WeChat, sia che sia Alibaba, lo dico per dare una dimensione globale. E quindi la risposta short answer è follow the money, cioè capire come queste piattaforme si remunerano. Una volta che hai capito il modello economico, hai l'80% dei mezzi per districarti bene da tutti gli, diciamo, i luoghi estrattivi della rete. Io dico sempre che le giovani generazioni capiscono istantaneamente quando si trova in un luogo estrattivo e magari accetta le regole, no? Come succede su TikTok, no? I ragazzi usano TikTok soprattutto per questa dimensione performativa che ha TikTok, però è una dimensione performativa che noi magari critichiamo perché la consideriamo una forma di narcisismo e siamo preoccupati, ma come, vogliono diventare tutti delle star, finiranno su OnlyFans e così via. La verità è che loro sì, hanno una dimensione performativa, ma è un loro linguaggio di cui sono perfettamente A, consapevoli, e B, trasparenti. Non sono non nascondono la dimensione performativa dietro un altro fine, che è esattamente quello che facciamo noi adulti su Facebook. In tutti i thread su Facebook noi pensiamo, ci illudiamo di discutere nel merito, ma fondamentalmente mandiamo un solo messaggio che è performativo ed è: io sono migliore di te, io ho studiato di più, io non scrivo con le K, io non ho votato il partito di idioti che hai votato tu, eccetera, eccetera, eccetera. Noi facciamo un balletto su Facebook, esattamente, però lo facciamo nascosto, non siamo trasparenti. Noi prendiamo in giro noi stessi e prendiamo in giro gli altri. I ragazzi non prendono in giro nessuno, adesso io sto generalizzando, la stragrande maggioranza non prende in giro nessuno. Allora, sul tema quindi della consapevolezza, i ragazzi hanno questa capacità di capire qual è il luogo estrattivo, non capiscono come funziona l'algoritmo, non capiscono il tema dell'advertising, di rivendere i dati, come lo capisce un analista che sta lì dietro, eccetera. Però ci sono nati, così come noi siamo nati, con le inserzioni pubblicitarie durante Dallas e Falcon Crest. E prima ancora siamo nati con il pallino del canale nazionale che si accendeva e lampeggiava quando iniziava un programma sul secondo programma, cioè, perché era il racconto del monopolio, è dire: guardate, io che sono il monopolio vi dico cosa c'è su quell'altro canale, tanto sono sempre io. Questo è anni 50, poi dopo Falcon Crest e poi adesso gli algoritmi, le inserzioni, i dati venduti. Quanto è importante sapere tutte queste technicalities? Io quello che vi dico è che quando un ragazzo di 16, 17, 18 anni cerca un posto dove esprimersi liberamente in una città, capisce istantaneamente quando si trova in un luogo estrattivo, un centro commerciale, oppure quando si trova a un evento, quando si trova in un posto dove deve consumare qualcosa, e puntualmente lo scartano e vanno in altri luoghi dove piantano la tenda e stabiliscono le loro regole. Creano uno skate park sotto un viadotto e lì valgono le loro regole. Si vedono in una sala studio e magari non studiano, ma lavorano e socializzano insieme, e lì valgono le loro regole. Ecco, fanno la stessa cosa con internet. Quindi tutto questo ragionamento che giustamente chiedevi, quanto è importante sapere, io lo rivolgerei intanto agli ultra quarantenni, eccetera. Prima cosa, mi verrebbe da consigliare un bellissimo libro che racconta i modelli di business. Io prima di scrivere questo pamphlet raccontavo molti modelli di business, no? In quest'ultimo libro però ho cercato di farlo di meno, perché mi sono reso conto, scrivendo le ultime righe del libro precedente, Unframing, che io davo per scontato che bisognava sempre parlare di sostenibilità economica e finanziaria, di tutto ciò che succede nell'ecosistema dei media. E a un certo punto ho avuto un'illuminazione, ho detto, vabbè, finiamo sto libro così, ma il prossimo lo scrivo liberandomi da questo gioco del modello economico. Perché? Perché l'idea di il far circolare, il creare idee, il far circolare le idee, è diventato un'industria oggi, in un momento storico. Dico oggi, intendo negli ultimi 50-60 anni, si parla di industria nei media. Infatti si parla di industria culturale a un certo punto, no? Quando arriva la scuola di Francoforte, cioè, a un certo punto qualcuno si sveglia e dice, oh, siamo in un'industria culturale. E quindi in tutti i nostri ragionamenti diamo per scontato che è lì dentro che stiamo parlando, dentro l'industria culturale. Non è vero. Internet ci apre gli occhi sul fatto che la trasmissione, la creazione e la trasmissione di idee non necessariamente deve inseguire una sostenibilità economica. Ecco, una volta che tu ti rendi conto di questo, e io ho fatto una grande fatica a rendermi conto di questo, ti si apre una visione diversa, e allora ci rendiamo conto, come dice la comune amica Mafia De Baggis, che internet non è la nuova industria dei media, è l'aria che respiriamo, è come l'aria che respiriamo. Per la seconda domanda. No, in realtà non ho una vera risposta, ho una controriflessione, e la controriflessione è un po' più ampia. Nella relazione fra le persone e i nuovi mezzi di comunicazione, è evidente che su alcuni aspetti le generazioni nate dentro a questa era siano più competenti. No, poi ci sono altre cose sulle quali le nuove generazioni non sono un granché competenti, per esempio il classico errore che fa una persona molto giovane online è di condividere troppo, no? Il too much information, quindi magari non pensi che quell'immagine seminuda con cui va a far colpo sui tuoi amici poi la vede anche il prof, la famiglia, no? E diventa tutto così un gigantesco problema. Però rispetto alla trasmissione del sapere, rispetto a questi argomenti, noi siamo, secondo me, e lo dico da tanti anni ormai, siamo in un'epoca senza precedenti, in cui i più grandi non sanno cosa trasmettere ai più giovani in merito, no, alla tecnologia, al digitale, eccetera, e di solito invece sono i maestri che sanno di più, no, dei propri scolari, dei propri allievi su tutti i temi, quindi so più o meno cosa devo insegnare, ti insegno questo e quest'altro, e c'è un vuoto di sapere, perché la mia in sostanza è la generazione che ha fatto il passaggio, no, fra analogico e digitale, ma eravamo pochi quelli consapevoli appunto negli anni 90, cioè era una cosa di elite la rete. La maggior parte delle persone, io identifico un grande rift nel momento in cui arriva Facebook 2008, e secondo me online si possono riconoscere le persone di una certa età, da una certa età in su, diciamo over 35, che sono entrate online con Facebook, perché hanno un'impostazione particolarmente incasinato, secondo me, cioè non riescono a relazionarsi in maniera serena con i social media, con tutto quello che succede, e si frequentano soprattutto Facebook, cioè una generazione che io vedo soprattutto su Facebook, ogni tanto Instagram ma non tanto. E allora come si fa? Cioè abbiamo un doppio problema: non sappiamo da adulti, da docenti, cosa insegnare, e non sappiamo neanche esattamente come insegnarlo, e allora ci rifugiamo in questi luoghi comuni. No, la generazione senza parole, internet che ti distrae e basta, la scuola, non è una questione della scuola, io la mia scuola sono orgoglioso di dire che tutti i telefonini vengono chiusi in un armadio. ora uso un francesismo, brava fava, mi viene da rispondere a me, perché no, a me me lo dicono tanto, io vado in tante scuole e dico, e questa sarebbe la grande innovazione? Cioè, pensate, tu a un certo punto parli della DAD nel libro, pensate alla DAD, la didattica a distanza è stata impostata su quello che noi vediamo come il centro della relazione digitale, cioè il computer, il personal computer, non è affatto il dispositivo standard per il ragazzino e la ragazzina che fa tutto tramite il telefonino. Ecco, per esempio, a me ha stupito che per tantissimo tempo nessuno ha pensato di fare la didattica digitale su una piattaforma che funzionasse bene con i telefonini. Che pretendevi? Che uno che ha tre figli avesse tre PC a disposizione, in tre stanze diverse, per esempio? Eh, perché le cose brutte invece, le, no, invece YouPorn non succede, no, sì. E invece è un po' un santuario, no? La cosa di noi anziani, no? Il tempio e così via. Però pensateci solo a quello, alla distanza fra l'esperito dalle giovani generazioni in termini digitali e quello che noi abbiamo sovrapposto, e nella pandemia si è visto particolarmente, no? Per cui io ho avuto fortuna, io ho una figlia unica, sono abbastanza benestante, per cui cosa ho fatto? Ne ho approfittato per rifarmi io il computer, no? Ho dato il mio a mia figlia e vissero tutti felici e contenti, un computer che adesso viene usato solo per il gaming, ma questa è un'altra questione. Però pensate alle famiglie con tanti figli che sicuramente avevano i cellulari, appunto, e invece i PC non ce li avevano. Quindi la domanda è lecita, non so rispondere. Ovviamente mi viene in mente quello che diceva Tullio De Mauro sull'educazione linguistica democratica, sulla scuola democratica, in cui si presume un molto maggiore ascolto degli studenti. Non dico la flipped classroom, no? Cioè la classe capovolta, però alcune volte anche sì. Cioè, a volte quando si parla dei giovani d'oggi che non hanno parole, io rispondo sempre, allora vai in classe, professore, vai in classe domani, prendete un testo di Da Supreme e fatevelo spiegare dai ragazzi, perché te non lo capisci, no? Quindi facciamo all'inverso, il ragazzo che spiega alla persona adulta, dove è finito il microfono? Il ragazzo che spiega alla persona adulta il linguaggio che apparentemente i ragazzi non hanno, no? Sono, però sono piccole cose. Una cosa bellissima. Sono succede. E cioè che una ragazza di 25 anni intervista le persone di due generazioni precedenti e fa un capolavoro come storia di Carla, cioè mette le generazioni precedenti in condizione di trasmettere le loro vite, le loro esperienze, di cui nessuno si accorge dal punto di vista mediatico, perché nessuno ci ha fatto un modello di business sopra, e quindi in questa isola... Ma è proprio perché non c'è il modello di business, no? Cioè tu sei fuori dal modello di business, perché quando esci dal modello di business non fa parte dell'industria editoriale, significa automaticamente incontrare la diversità, anche quindi un sacco dialogo. Di rumenta, e quindi dialogo, anche un sacco di rumenta, ma anche uno stimolo per il vostro senso critico, che anche quello è completamente azzerato dall'offerta dei media, dove si dà per scontato che quello che arriva è giusto, è sbagliato, è giusto, è professionale, è fatto bene. Noi siamo abituati a pensare che una radio fatta bene sia una radio con la voce accelerata che vi dice admin concerning per la fine di qualsiasi spot, oppure un jingle, una voce colorata. Non siamo abituati a considerare questo, questa è una radio professionale, perché il linguaggio è quello della radio, no? E ascolti un podcast e scopri uno spettro di diversità che prima non hai mai incontrato. È quella la internet che non dobbiamo sprecare. Ho visto c'era un'altra forse domanda. Aspetta, che sennò non viene nella registrazione. Sull'importanza, mi collegavo all'importanza della linguistica, che potrà essere sempre, sarà sempre, credo, più importante nel futuro. Anche perché, e questo lo chiedo a voi, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, per i ragazzi, per noi tutti, sarà fondamentale la qualità delle domande che saprai offrire al sistema. Quindi più lessico riusciremo ad utilizzare, più vocaboli avremo a nostra disposizione, più riusciremo a guidare, no? Perché sarà un generare contenuti partendo appunto dalle nostre stesse domande. Quindi ecco, come cambierà dal punto di vista anche dell'utilizzo dell'utente stesso la creazione di contenuti con la realtà aumentata, con l'intelligenza artificiale. Non so se sono stata chiara. No, io un po' pochissimo e sto per girare anche questa, che è difficile, avere, questa è la strategia, l'avete capito. Comunque è già un grossissimo passo avanti la tua domanda rispetto alla domanda tipica sull'intelligenza artificiale, che è anche questa tipicamente distopica e dà la colpa a chi gestisce queste piattaforme e non, per esempio, a come viene istruita, no? Che è un problema profondamente umano. E anche questa è l'ultima ondata, diciamo, di distopia legata alle applicazioni in rete, le applicazioni di intelligenza artificiale. Tra l'altro ce ne siamo resi conto tutti insieme quando è apparsa non l'intelligenza artificiale, che in rete esiste da decenni e alimenta gli algoritmi in modi molto molto più estrattivi rispetto a quello che fa per esempio ChatGPT o Midjourney o come si chiama? DALL-E, no? Il motore di immagini. No. Però quando sono apparse queste web app facili alla portata di tutti, una vera esperta di intelligenza artificiale, che è Oriana Persico, altra comune amica, ha fatto una lezione alla mia università dicendo: ecco, adesso si sono svegliati tutti perché gli hanno fatto vedere la scimmietta del circo. Questa è stata la sua reazione, cioè il mondo appunto del racconto dominante sull'evoluzione tecnologica ha visto la scimmietta del circo e si è inalberata. Abbiamo istantaneamente quasi dimenticato il cyberbullismo, non dico le fake news che funzionano sempre, ma cioè, alcuni grandi successi di questa Los 40, no? La compilation della top 10 distopica, sono passati nella seconda, terza e quarta posizione perché è arrivata la scimmietta del circo dell'intelligenza artificiale. E io credo che, così come si parla di necessità di educare tutti al pensiero computazionale, che era la, diciamo così, esigenza manifestata nello stadio precedente, adesso c'è la necessità di educarci a relazionarci con questo tipo di tecnologia, in modo da fare in modo che il nostro contributo all'evoluzione di questa tecnologia sia un contributo positivo. Perché il problema è, però, ancora una volta, non solo il contributo di ciascuno di noi utenti, da cui poi l'intelligenza artificiale impara, ma soprattutto quando arriva Microsoft e dice: ecco, così io farò il motore di ricerca che estrometterà Google. Perché questo fondamentalmente è questo quello che è successo nella grande industria. Provo a tirar fuori per un attimo l'analista dei media, no? Che ritorna dal spiano hobby. È questa la domanda che può determinare se da tutta questa tecnologia noi avremo dei vantaggi o degli svantaggi. Quindi, ancora una volta, il peso di chi prende la decisione industriale a quel livello sta quassù, e noi dobbiamo tutti insieme, non solo imparando a rivolgersi all'intelligenza artificiale in modo adeguato, ma come, lasciatemi dire, corpo elettorale, come vogliamo dire, come comunità di persone sensibili sul problema, tutti insieme dobbiamo dire: ma è mai possibile che questa cosa deve essere usata solo per fare in modo che un monopolio se ne sostituisca un altro? Perché oggi è così, oggi c'è Google che è un monopolio naturale, e poi magari uno ce ne sarà un altro che sarà Microsoft se vince, o non lo so, vedo Vera giustamente dissentire, io non lo so, non ho una risposta su questo, cioè dico attenzione, c'è la risposta, no, lui è il microfono che si rifiuta giustamente dopo la mia risposta diventa troppo lunga, vedere il peso delle grandi decisioni industriali su di noi, perché in questo momento queste decisioni industriali ispirano il potere politico che ci dovrebbe rappresentare e non viceversa. Questo è quello che sta succedendo adesso. No, ma sarò molto sintetica. A me fa un po' sorridere la paura del testo fatto dall'intelligenza artificiale, perché non so se avete presente quei testi tutti uguali, tipo gli inviti agli eventi, nella splendida cornice. No, ecco, io credo che per esempio lì o sulla cronaca, proprio liscia, schia, Ma è comodissimo, cioè tu lo fai fare all'intelligenza artificiale, lo fai anche meglio, non è lì che si estrinseca l'arte. Mi sembra quasi che l'essere umano sia scioccato perché considerava la composizione dei testi la sua cosa più umana, no? La cosa meno come si può dire, espugnabile dall'intelligenza artificiale. La creazione di senso, esatto. E a questo proposito ho un altro, come dire, un consiglio di lettura, sempre fuori dal contesto saggistico, che è una serie di libri di fantascienza che si chiama The Murderbot Diaries, i diari della macchina assassina in italiano, sui quali si ragiona su dove inizia la macchina e finisce l'essere umano e viceversa. Sono molto carucci e molto leggibili. Ed è peccato che in italiano si perda, a proposito di lingua, che in inglese è chiamata it continuamente, e in italiano è la macchina, quindi diventa lei, ecco, quando farebbe comodo una forma senza genere, però vabbè, questa è un'altra questione. Ma no, invece rispetto all'insegnamento linguistico volevo ancora dire una cosa, ed è una cosa che anche qui mi ripeto. In Italia il problema dell'insegnamento dell'italiano si è posto nel momento dell'Unità d'Italia, perché il 97,5% degli italiani non parlava italiano, e quindi è sempre stato emergenziale l'insegnamento linguistico. Faccio notare che nel 1975, anno della mia nascita, Tullio De Mauro con i gruppi Gischel pubblicava le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica, che erano così progressiste che ancora oggi sono lettera morta. Perché lui diceva fondamentalmente una cosa: la scuola tradizionale ha insegnato come si devono dire le cose, la scuola democratica dovrebbe insegnare come si possono dire le cose, che è un piccolo spostamento di focus ma molto importante. Io credo che il mondo ormai sia talmente complesso da un punto di vista cognitivo che noi abbiamo bisogno di un diverso modo di insegnare la lingua, cioè la lingua, la parola effettivamente è una guida per la nostra contemporaneità, ci può aiutare a capire meglio, a relazionarsi con la diversità, a relazionarsi con la complessità, a capire quando veniamo presi per il belino e quando magari invece no, a capire tutte le sfumature, perché è vero che la parola è un elemento centrale dell'umanità e dovremmo curarlo di più. Si può fare questo anche a scuola, secondo me sì. Basta leggere, andate online e leggete le 10 tesi di Tullio De Mauro, si trovano sul sito del Gischel, sono gratuitamente disponibili, e vedrete che lui già, voglio dire, 48 anni fa, mi ricordo quanti anni ho, 48 anni fa diceva delle cose che oggi ci servirebbero ancora di più. È evidente che non basta la preparazione formale all'uso della parola, c'è bisogno di una preparazione più approfondita. Per esempio, appunto, io dico sempre che ci si lamenta delle fake news, che è una cosa molto più complessa di così, ma una roba sulla quale si riflette sempre troppo poco è: molte notizie false potrebbero venire sgamate leggendole con attenzione. Per esempio, il Papa che si rifiuta di benedire il cagnolino della signora. Non è questo il punto. Il Papa si è rifiutato di benedire il cagnolino della signora perché la signora gliel'ha presentato come il mio bambino, e su questo il Papa si è adombrato. No? E però è partita la bambola, il Papa si dice però poi benedice la Lamborghini, no? E quindi ora oggi parliamo del Papa che non ha benedetto il cane, perché allora i cani sono superiori agli esseri, no? Perché io... E basta leggere, a volte basta leggere con attenzione. Sì, direi anche un problema di fake relevance, non solo di fake di fake news, però sì, imparare a leggere le notizie, cosa che io per primo ancora devo fare. Ci sono altre domande? È l'ora dello sprint. Allora finiamo ringraziando Vera e Antonio per questo bellissimo pomeriggio, e finiamo con una piccola citazione. Peraltro tu nel libro ti autociti 3 o 4 volte, lo faceva Rossini, Donizetti, per cui va benissimo, quindi non è assolutamente un problema, però te lo volevo dire. Le autocitazioni, Puccini, ce ne sono tante, no? E lui a un certo punto dice: cosa non avremmo potuto, cosa possiamo fare grazie a internet, no? Senza internet per esempio non avremmo potuto creare e mettere a disposizione delle persone tutta una serie di contenuti industrialmente non necessari, non avremmo mai potuto scrivere qualcosa senza l'obbligo di compiacere un pubblico o senza passare attraverso i filtri della narrazione o della divulgazione. Oggi, grazie alla Open Internet, possiamo ancora innestare la marcia indietro, costruendo un ecosistema dei media molto meno tossico dell'attuale, dalla parte di chi crea, certo, ma anche dalla parte di chi intende accedere autonomamente e senza un filtro industriale alla conoscenza, scoprendo così autonomamente non solo il talento e la creatività, ma anche e soprattutto la diversità. Grazie Vera, grazie Antonio.